Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Sendo che è di sabato, arriva Mebius e io ti saluto. Eccoci. Ciao qua. Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Settimana. Partiamo ovviamente con la settimana dei Nobel. È stato annunciato quello per la medicina, quello per la fisica e quello per la chimica. Noi abbiamo deciso di approfondire i primi due e poi la settimana prossima vedremo. E poi parleremo invece di un primo possibile passo concreto in quella grande industria che è la conservazione del nostro patrimonio. Vediamo se si può decollare. Partiamo subito. Via, via, via. A un certo momento potreste ricevere una telefonata. Moshi Moshi, Yoshinori speaking. Yeah. Hello, Professor Osumi. My name is Adam Smith. I'm calling from the official website for the Nobel Prize. Uh-huh, yeah. First of all, our congratulations on the award of the Nobel Prize. Thank you so much. Yeah, I was surprised. Yeah. How did you hear the news? I had a call from Thomas Palman. Yeah, Secretary of the Nobel Committee, yes, indeed. Pacato. Molto pacato. Serafico. Giapponese. La notizia, diciamo, non l'ha sconvolto, probabilmente se l'aspettava o forse, insomma, ma lui è dice a plomb che ha avuto giapponese. Una spiatina. Allora, vabbè, ovviamente l'avrete riconosciuto anche solo dal nome, che è Yoshinori Ozumi, che è il Nobel per la medicina che è stato annunciato proprio questa settimana. E adesso vogliamo un po' riuscire a nostro modo a raccontare quella che è la ricerca, insomma, anche se complicata, in questo campo della medicina. E possiamo dire che questo Nobel è stato dato anche ai lieviti, che ne hanno presi tanti di Nobel nella storia del Nobel. E qui in particolare l'hanno presa su un meccanismo che si chiama autofagia, lo avrete sentito e letto, che è una sorta di pulizia cellulare, ma che dobbiamo, insomma, in qualche modo raccontare. Lo facciamo con Duccio Cavalieri. Buonasera Cavalieri. Buonasera. Lei è docente di microbiologia all'Università di Firenze, collaboratore della Fondazione Edmund Mach di Trento, e la Fondazione, coordinato da lei, l'anno scorso aveva proprio il premio Nobel Yoshinori alla Fondazione stessa per un convegno sui lieviti. Brevissima definizione di lievito e poi ci dice come mai sono così importanti al punto da prendere così tanti e Nobel. E lo stesso Nobel ha lavorato prima sui lieviti e poi sulle cellule animali. È partito dai lieviti. Il lievito è, innanzitutto parliamo di un lievito che si chiama Saccharomyces cerevisiae come nome scientifico, ma il nome comune è lievito di birra. Quindi molti di voi se lo ricordano di trovarlo sugli scaffali dei supermercati e probabilmente non si usa. Certo. Non si usa. E il lievito di birra ha delle caratteristiche eccezionali, perché primo non è un batterio, cioè è un microrganismo unicellulare, è grande 10 volte di più dei batteri ed è grande 10 volte meno di una cellula di mammifero, cioè di una cellula come le nostre sostanzialmente. E la cosa bella è che essendo un eucariote, cioè appartenendo alla stessa classe delle cellule nostre, delle cellule degli organismi superiori, incluse anche le nostre, condivide con le nostre cellule dei meccanismi di funzionamento conservati attraverso l'evoluzione, cioè il lievito, per quanto possa sembrare strano, la cellula del lievito si comporta strano. In modo simile alle nostre cellule. È un modello semplificato, ecco, per essere un po' più semplici. Esatto, per essere più semplici è come una struttura semplificata che ha tutti i pezzi che compongono le cellule dell'uomo, le cellule degli eucarioti e di topo. Soltanto li ha organizzati in modo più razionale, se possiamo dire così, cioè in modo più semplice, e quindi è facilissimo, è più facile, non facilissimo, capirne la funzione di quanto lo sia nelle cellule di mammifero. E Yoshinori cosa ha fatto? Veniamo a questo meccanismo che avrebbe individuato. Yoshinori, il lavoro di Yoshinori è un lavoro interessante. A me piace ricordare a questo proposito una frase, che è una frase molto bella, che dice: i semi delle grandi scoperte si presentano costantemente a tutti noi, ma germogliano e fruttificano solo nelle menti preparate a riceverle. Questa è una frase di Joseph Henry. Yoshinori Mori sostanzialmente, quando era alla Rockefeller University e cominciava a lavorare negli Stati Uniti sul modello lievito, perché va detto che gli Stati Uniti d'America, che investono moltissimo in ricerca, hanno investito e investono tutt'oggi tantissimo nella ricerca che utilizza il lievito come modello. Diversamente da quanto da forse quanto succede viene qui. Qua, credo lei che ci abbia detto. Noi investiamo poco in ricerca, investiamo tantissimo in cose complicatissime. Ecco. Ma gli americani investono moltissimo in questo modello semplice e Yoshinori Ozumi, guardando il lievito al microscopio, si chiede cos'è una struttura che praticamente vede il microscopio, insomma, all'interno della cellula di lievito, che si chiama vacuolo praticamente, e che individua praticamente la funzione di questa struttura, sostanzialmente caratterizzandone i geni. Cioè quello di grande che ha fatto Ozumi è che ha osservato un fenomeno fisico e ha utilizzato un modello semplice per clonare i responsabili praticamente di questa struttura e per capirne la fisiologia e il funzionamento. Quindi Ozumi caratterizza i geni ATG5 e i geni della famiglia ATG, che sono responsabili sostanzialmente dell'autofagia, della regolazione del funzionamento di questa struttura cellulare che si chiama autofagosoma. Ecco, che cosa significa che una cellula in qualche modo si autopulisce? Che gestisce la sua spazzatura in modo così efficiente. È bellissimo il modo con cui se ne è accorta. Cioè, praticamente l'autofagosoma è una struttura di membrana esattamente come quella della cellula che lo contiene, che è collegato agli altri compartimenti della cellula e quindi c'è una sostituzione di continuità con le altre membrane della cellula. Quello che fa praticamente è ingolfa, cioè praticamente incapsula delle sezioni di citosol, cioè della parte interna della cellula, e lo degrada. Cosa fa? Non fa questa degradazione in modo casuale, ma sostanzialmente degrada quelle porzioni della cellula che sono ossidate, funzionano male, sono invecchiate praticamente. Quindi è una specie di struttura di riciclo del materiale cellulare. Cioè, perché le degrada ma non le butta via. Le riusa. Le degrada e quando necessario le riusa. Ossia c'è nella cellula di lievito, il lievito ha una, come anche nelle cellule mammifere, esiste una struttura di economia cellulare, no? Cioè sostanzialmente tutto quello che può essere riutilizzato viene riutilizzato, e quindi sostanzialmente in particolare in condizioni di starvation, cioè praticamente di affamamento, la cellula tende più che a utilizzare, diciamo, nuove sostanze nuove, a crearle, a riutilizzare quelle che praticamente sono ancora riutilizzabili, che vengono dall'interno. E l'aver capito questo meccanismo è importantissimo dal punto di vista scientifico, ma poi anche nello sviluppo di cure, ad esempio per alcune malattie, ad esempio quelle neurodegenerative, il Parkinson e addirittura alcune forme di tumori. Ci può spiegare magari perché? Proverò a dare una linea praticamente. Cioè, molte delle malattie sono basate sull'accumulo di proteine non funzionanti, cioè praticamente in molti casi avete sentito voi parlare proteine amiloidi, cioè vi ricordate il vecchio morbo della mucca pazza, no? Era un caso estremo sostanzialmente di proteine non funzionanti, e queste proteine sostanzialmente ingolfano la cellula e la rendono praticamente meno efficiente, la rendono essa stessa non funzionale. Questo può portare da un lato a patologie neurodegenerative quando questo avviene nel cervello. Ma l'autofagosoma è anche legato a due altri meccanismi essenziali praticamente della cellula. Uno di questi è la morte per apoptosi. Quindi praticamente la morte per apoptosi è esattamente un sistema con cui la cellula muore come morte programmata e l'organismo riesce a inviare in un percorso di morte quelle cellule che non rispondono più ai segnali dell'insieme. Quindi praticamente questo meccanismo di autolisi sostanzialmente è utilizzato anche nell'apoptosi, quindi nell'eliminazione di cellule che potrebbero diventare tumorali. Grazie davvero Cavalieri, speriamo che anche in Italia si faccia più ricerca di questo tipo e magari appunto ci arrivi anche qualche bel Nobel nei prossimi anni. Io credo che se noi cominciamo esiste una comunità di lievito molto vitale, ha bisogno di fondi, costa poco e può dare grandi risultati. Meccanismo molto più semplice, ma che spesso ha un sacco di pasticci. Il traffico. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza. I will start by explaining to you a concept from the citation that might not be familiar to you, and that's the concept of topology. So I brought my lunch. C'è in mano delle brioche. It's a cinnamon bun. Here I have another thing. I have a bagel, okay? Mm. And bombolone. Here I have a pretzel. Ecco, allora qui lui c'è un commissario dell'Accademia delle Scienze dei Nobel, lo svedese Thors Hans Hansson, che spiegando le motivazioni del Nobel per la fisica tira fuori un sacchettino, dice adesso vi spiego brevemente utilizzando il mio pranzo. E tira fuori, appunto, lui dice cinnamon bun, che è una specie di brioche, chiameremo noi, insomma, una pastina alla cannella, poi un bagel, quindi una ciambella. Esatto, e un pretzel, che sono quei panini arrotolati a forma annodati, diciamo, uno dentro l'altro. E da lì, caspita, parte per parlare delle transizioni topologiche della fisica. Ecco, e da qui anche noi vorremmo partire con il nostro ospite, con Tommaso Calarco. Buonasera Calarco. Buonasera. Lei è un fisico quantista italiano che però lavora all'università di Ulm, ma è anche membro del comitato di coordinamento del grande progetto europeo, si chiamano Flagship, questi progetti, che europeo e italiano, che lavorano sulla meccanica quantistica. Esattamente su quale direzione, Calarco? Sulle applicazioni quantistiche, come possiamo usare la meccanica quantistica per sviluppare tecnologie del futuro. Allora, Möbius ha un po' vinto il Nobel pure lui, ce lo consente, perché Möbius è un nastro. Anche il nastro di Möbius ha quella forma un po' tipo Brezel. Va bene, però cosa c'entra la topologia con la meccanica quantistica e con questo Nobel? Allora, è molto complesso dal punto di vista teorico spiegarlo, però proviamo con un esempio semplice. Allora, si tratta di teorie che descrivono le transizioni di fase. Cos'è la transizione di fase? Sembra una parola molto misteriosa. In realtà descrive delle cose che succedono tutti i giorni, che noi vediamo tutti i giorni, come ad esempio quando si scioglie il ghiaccio e il ghiaccio diventa acqua, da solido a liquido, oppure quando l'acqua bolle, diventa vapore, la pasta, e diventa vapore. Allora, che cosa succede in quei momenti di transizione, proprio quando c'è il passaggio dal solido al liquido, da una fase all'altra? Allora, la materia è regolata da fenomeni che sono tipicamente quantistici. Bisogna andare, per capire bene queste transizioni, bisogna andare veramente a livello microscopico nel mondo che è governato dalle leggi della meccanica quantistica. Ora, cosa c'entra la topologia? La topologia c'entra perché queste transizioni di fase che noi abbiamo con dei solidi semplici, come può essere un cristallo di ghiaccio, oppure cristalli a cui siamo abituati, diciamo, normalmente nella nostra vita di tutti i giorni, queste non hanno, diciamo, proprietà molto intricate. Ma quando noi arriviamo a discutere situazioni che sono più di modelli più complessi, inventati, diciamo, dalla fisica teorica, possiamo anche trovarci di fronte a situazioni in cui ci sono delle fasi che non sono così semplici, ordinate, no? Come un cristallo, un metallo, un materiale normale, ma materiali topologici, in cui queste fasi cominciano ad annodare tra di loro in maniera molto intricata le proprietà, le correlazioni, i legami, insomma, tra le varie particelle. Perché la topologia è quell'area della matematica che studia proprio la geometria delle intersezioni fra oggetti, no? Studia sì le intersezioni tra oggetti, come gli oggetti sono annodati tra di loro, ma non tanto per la topologia, è proprio la geometria, cioè le distanze tra gli oggetti, le proporzioni sono irrilevanti, e quello che è rilevante invece è come sono gli oggetti annodati tra loro. Ecco perché, torniamo al commissario della commissione Nobel, ha tirato fuori il panino, una bagel, che è una ciambella, e poi la pretzel, che è più complicata, perché ci sono diversi buchi, no? In questi oggetti, ci sono più o meno buchi. Allora, per la geometria, diciamo, la ciambella che io intingo nella mia tazza di latte e la tazza stessa, no, sono due oggetti che sono molto diversi per la geometria, ma per la topologia sono la stessa identica cosa. Perché? Perché la tazza ha un manico, nel manico c'è un buco, e io, se penso di avere questa tazza fatta di gomma e anche la mia ciambella fatta di gomma, io posso deformare l'una nell'altra. Mantenendo, però, diciamo, la struttura del buco. Esatto, senza tagliare. La topologia mi permette trasformazioni che non mi fanno tagliare gli oggetti, ma li deformano elasticamente come fossero di gomma. Quindi il buco rimane un buco. Tutti gli oggetti che hanno un buco sono equivalenti per la topologia. E in quelle transizioni che lei diceva prima, ci sono delle strutture di questo tipo? Ci sono sono delle correlazioni, dei legami tra le particelle che possono essere descritte in questo modo. Okay. Non possiamo allora visualizzare, immaginare che ci siano proprio dei nodi tra le particelle, no? In quelle transizioni, questo non è realmente a cosa corrisponde la realtà. Sì, ma, insomma, però possiamo dire che il modo di visualizzare le strutture che si creano può essere simile a quello. Ecco, ecco, e diciamo, più buchi hanno, ad esempio, il pretzel, che ne ha due o tre a seconda di come è fatto, ecco, più è complicata la materia, può essere un po' così? Certo, non solo questo, sicuramente è corretto quello che lei ha detto, ma anche possiamo dire che tutti i tipi di materia che hanno lo stesso livello di complicazione, in qualche modo che sono topologicamente equivalenti, tutti gli stati della materia che possono essere deformati uno nell'altro, no? Hanno delle proprietà, come ad esempio il numero di buchi, che sono molto robuste. Robuste nel senso che se arrivano delle deformazioni esterne, rumore, impurità, disordine e quant'altro, tutto quello che c'è nel nostro mondo intorno a noi, insomma, quando le cose sono calde e si muovono in costante movimento, però queste proprietà, come il fatto di avere un buco, oppure no, oppure due, queste sono robuste. Quindi è possibile produrre degli stati della materia che, se hanno queste proprietà topologiche, rimangono preservati anche se c'è molto rumore, molto disturbo, molta imperfezione. Calarco, ci dica rapidamente le applicazioni che ci possono essere a partire da questa individuazione di queste strutture. Certo, queste sono applicazioni che ci riportano un po' a questo tema delle tecnologie quantistiche che citavo all'inizio, su cui c'è questa grande iniziativa sia europea che italiana, coordinata adesso dal CNR. In particolare, cos'è il vantaggio di questa robustezza che abbiamo discusso, no? Noi vogliamo creare per queste tecnologie quantistiche degli stati quantistici che ci permettono, ad esempio, di trasformare delle informazioni, di trasmetterla, di elaborarla in calcolatori quantistici, in comunicazioni quantistiche sicure. Allora, che cosa succede qui? Noi, gli stati quantistici sono di solito delicatissimi, perché immaginiamo di avere un piccolo fotone che io cerco di mandare per trasmettere un bit di un messaggio. Questo qui è molto delicato ed è molto facile che l'interazione con l'ambiente, questa cosa che dicevo prima, rumore, disturbi, disordine, possono distruggerne lo stato. Se io allora uso, invece di stati semplici come quello di un fotone, di un atomo, degli stati più complessi che però hanno delle proprietà topologiche, più robuste, che sono difficili da deformare, da rompere, sono più robuste, allora questi sistemi che io preparo saranno molto meno suscettibili, aggredibili dall'ambiente, più sicuri. Esattamente. Certo. Questa è la componente fondamentale che ci porta in direzione delle applicazioni. È come aver scoperto un nuovo materiale, è un analogo ovviamente, molto sono più resistente. Sono proprio degli altri materiali, esatto. Ma non solo scoperto, qui la cosa bella è, questo è un premio teorico a dei fisici teorici, molto spesso, nella maggior parte dei casi, vengono dati a fisici sperimentali che hanno fatto un esperimento, hanno trovato un fenomeno, questi invece hanno pensato, hanno immaginato, quindi oltre a scoprire stiamo parlando di creare, si tratta di creatività spinta dalla curiosità di inventare delle cose strane, dei fenomeni esotici, è il termine che ha usato proprio durante l'annuncio della Commissione Nobel, vero. E questo proprio è un elemento molto anche affascinante, nel senso che si cerca di inventare degli stati di materia che ancora non ci sono, molto meno banali della nostra acqua che noi otteniamo dopo aver sciolto il nostro cubetto di ghiaccio. Questa è un po' la sfida anche del progetto che lei sta coordinando. Grazie Calarco, buon lavoro. Grazie mille, tante grazie a voi. Arrivederci. Da tempo diciamo anche qui in onda che c'è una grande industria potenziale italiana che nasce da una grande ricerca, un grande patrimonio che abbiamo, è quello cultural heritage, cioè il patrimonio storico, artistico. Abbiamo un sacco di roba, forse ne abbiamo anche troppa. Questa industria può davvero avere dei significati grossi, certo sul piano culturale, ma soprattutto sul piano, anche diciamo non soprattutto, sul piano commerciale. E di questo vi vogliamo parlare, ma c'è un convegno, no Chiara? Sì, in realtà c'è proprio una manifestazione, il 13 e il 14 ottobre, quindi settimana prossima a Lucca, c'è l'UBEC, appunto Lucca Beni Culturali, in cui vengono raccontati tutti gli strumenti, le tecnologie e le opportunità che a questa valorizzazione del nostro patrimonio culturale, archeologico e quanto vogliamo, insomma, possa davvero essere una risorsa importante per il nostro paese. E qui con noi questa sera c'è Daniele Malfitana. Buonasera Malfitana. Buonasera a voi. Lei è il direttore dell'Istituto Beni Archeologici Monumentali, sede di Catania, italiano, del CNR. Allora Malfitana, vediamo subito concretamente degli esempi per capire che cosa potrebbe mettersi in moto. Beh, gli esempi sono, come dire, direttamente legati un po' anche all'attività che noi stessi facciamo. Noi, ad esempio, in questi ultimi anni abbiamo tantissimo lavorato su un monumento straordinario della città di Catania, un anfiteatro romano. Di questo monumento ne resta solamente visibile una parte nel centro della città. Tutto il resto sta sotto i palazzi della Catania settecentesca, è noto a noi specialisti, ma ignoto alla gran parte della città. Allora, cosa significa questo? Significa che lo studio del monumento e la ricerca, che ci hanno visto sempre presenti lì dentro, andavano ora portati fuori, andavano costruiti dei percorsi virtuosi di comunicazione avvincente, di divulgazione, di educazione, di traduzione di questa ricerca a vantaggio della società. Qual è il vantaggio economico di un'operazione di questo tipo? Beh, un vantaggio economico, come dire, che è quello legato ad un innalzamento della domanda di conoscenza, di capire di più da parte della città, ma un innalzamento della possibilità di creare dietro la conoscenza di questo straordinario monumento una economia per le numerose cooperative di giovani, di società, di centri di coordinamento, certo, di competenze ed esperienze che possono davvero dar vita a forme di economie che, nel totale rispetto delle regole della tutela del monumento, possono davvero produrre una economia. Perché lei dice, in loco si può creare una struttura anche semplice nella quale si entra e si vede ricostruito in digitale un monumento che non si potrebbe vedere assolutamente in altro modo, però lì ci può essere un piccolo ingresso di 2 euro, ci possono essere delle strutture, appunto, delle risorse umane che lo raccontano, no? Assolutamente, proprio questa la formula, che è quella, come dire, più avvincente, legata anche all'utilizzo delle tecnologie. Sto pensando, Amalfitana, a Roma, no? Sul Campidoglio ci sono i resti pochissimi di un tempio, il Tempio di Giove, che probabilmente era il tempio più grande mai costruito nell'antichità. Anche lì c'è un racconto fantastico. Possiamo pensare a tutta un'Italia che si rende visibile e che ha veramente un numero di cose da far vedere impressionante. Assolutamente, questa credo oggi sia davvero la chiave per produrre quella innovazione di cui tanto si parla. Con un costo anche più contenuto rispetto ovviamente a riportarle in luce e a fare un lavoro archeologico molto, ma molto più sostanzioso dal punto di vista anche delle finanze. Sicuramente l'archeologia di oggi, l'archeologia moderna e contemporanea come noi oggi la intendiamo, non è più l'archeologia ottocentesca dello scavo a ogni costo. Oggi lo scavo ha dei costi enormi, ma le tecnologie di cui noi oggi disponiamo ci permettono di conoscere tantissimo, tanto quanto forse faremmo con uno scavo, con un impiego minore di risorse, con una accelerazione nel processo di conoscenza davvero rilevante. Bene, la ringraziamo Amalfitana. C'è un sito www.lubeck.it e si può vedere il programma di questo convegno. E ricordiamo anche che lei sarà protagonista di un convegno proprio venerdì 14, quindi venerdì prossimo alle ore 10:30 lì al Real Collegio. Sì. Grazie Amalfitana, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Oh cielo, abbiamo 6 secondi. Abbiamo pochissimo per salutare i nostri ascoltatori e dare appuntamento a settimana prossima. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao. Ciao.